giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Giulia Cecchettin, l'ex fidanzato è stato arrestato nella notte in Germania, è stato fermato mentre si trovava in autostrada nei pressi della città di Lipsia. Secondo la classifica sulla qualità della vita del quotidiano Italia Oggi, Pordenone è la provincia italiana dove è più bassa la disoccupazione maschile. Consegnati questa mattina al Teatro Miela di Trieste i premi Lucchetta. La cerimonia si è aperta nel ricordo dei 46 giornalisti uccisi tra Ucraina e Gaza. Basket, Cividale ha perso in casa per 65-69 contro la Fortitudo Bologna, 30 punti dell'ex capitano azzurro Aradori per i biancoblu. Le 12:15, ancora buongiorno e buona domenica da Alessandra Zigain e Lorenzo Gerlinzoni. Come avete sentito dai titoli, la fuga di Filippo Turetta per sfuggire all'arresto è finita in Germania, dove è stato fermato. Intanto a Varcis, dove è stato ritrovato il corpo della sua ex fidanzata, continua il lavoro del RIS alla ricerca di indizi utili all'indagine. È terminata questa notte la fuga di Filippo Turetta, che è stato arrestato in Germania lungo l'autostrada a pochi chilometri a sud di Lipsia grazie al mandato di arresto europeo che pendeva nei suoi confronti nell'indagine per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettini. Il 22enne era in fuga da una settimana, fuga iniziata dopo l'aggressione a Giulia ripresa nella zona industriale di Fossò. La sua auto era stata avvistata poi tra Veneto, Friuli e Alto Adige fino in Austria a Cortina, nella cassa di un distributore automatico dove l'auto di Filippo era stata ripresa, sono state trovate banconote insanguinate. Ieri mattina il ritrovamento del corpo della giovane in un dirupo in un'area boschiva tra Barcis e Piancavallo, dove stamani sono tornati gli investigatori per ulteriori rilievi. Sul corpo sono state trovate diverse coltellate alla testa e al collo, svariate, profonde. Sulla base di quanto riferito dal medico legale che ha svolto l'ispezione esterna, gli investigatori sarebbero convinti che Giulia fosse già morta quando è stata lanciata nella scarpata dopo essere stata scaricata dall'auto di Turetta. Si sospetta anche la premeditazione. Sul PC del giovane sono state trovate ricerche su mappe e kit di sopravvivenza in montagna. Bisognerà attendere i tempi tecnici previsti dalle procedure per l'estradizione di Turetta in Italia. Il governatore Zaia intanto ha detto che il giorno dei funerali di Giulia sarà lutto regionale in Veneto. Barcis, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E poco fa l'agenzia ADN Cronos ha aggiunto alcuni dettagli sulle circostanze dell'arresto. Turetta era fermo in autostrada, come avete sentito, non lontano da Lipsia, era al lato della strada con le luci spente, mentre la legge tedesca prevede che le luci siano sempre accese. È stato così che i poliziotti tedeschi si sono fermati per un controllo, lo hanno riconosciuto la targa ed è stato arrestato. E bisognerà dunque attendere i tempi tecnici previsti dalle procedure, in genere qualche settimana, per l'estradizione in Italia di Filippo Turetta in esecuzione del mandato d'arresto europeo firmato dalla Procura di Venezia. La Germania dovrà adottare la decisione finale sull'esecuzione del mandato. Se Turetta consente alla consegna alle autorità italiane, la decisione è presa entro 10 giorni. In caso contrario, invece, i tempi si allungherebbero. Il difensore del 22enne potrebbe, ad esempio, chiedere rassicurazioni sulle condizioni garantite dall'Italia in tema carcerario, ma in ogni caso la decisione tedesca deve arrivare entro 60 giorni dall'arresto, appunto, di Turetta. Oggi il ministro degli esteri Tajani, a margine di un meeting di Forza Italia a Taormina, ha proposto per la giovane uccisa, che si sarebbe dovuta laureare in ingegneria biomedica, la laurea honoris causa, e il ministro dell'università Bernini ha approvato, mentre il ministro Valditara ha proposto per martedì un minuto di silenzio nelle scuole. Ora il meteo. Il cielo è da poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, Trieste 14 gradi, Udine e Pordenone 10,5, Gorizia 9, Tarvisio 8,5, Forni di Sopra e Tolmezzo 5,5, Sappada 4,5, Piancavallo 4, Monte Lussari 5,5, Monte Zoncolan 4 gradi, grado 12, Lignano 11,5. Queste le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio deciso miglioramento a partire da nord, con cielo in prevalenza poco nuvoloso, in montagna inversioni termiche con zero termico a 3000 metri di quota circa. Domani sulla pianura nella notte non si esclude qualche foschia o nebbia, in pianura appunto di primo mattino cielo poco nuvoloso, in seguito progressivo aumento della nuvolosità che sarà più consistente sulla fascia orientale e sulla costa. Dalla tarda serata deboli piogge tra l'Isontino e il Carso. Pordenone si piazza al decimo posto su 107 province esaminate nella classifica sulla qualità della vita stilata dal quotidiano Italia Oggi con l'Università Sapienza di Roma. In materia di affari e lavoro, la nostra regione è tra le prime 10 posizioni a maggioranza occupate da province del nord Italia. Pordenone si trova all'ottavo posto, Trieste al 28°. Per quanto riguarda la disoccupazione maschile nella fascia tra i 15 e i 64 anni, il Friuli Venezia Giulia compare con la prima provincia, Pordenone, proprio in prima posizione, mentre per quanto riguarda la disoccupazione femminile il capoluogo della destra Tagliamento si trova al 19° posto. Nel sistema salute Pordenone è in 33° posizione, Gorizia fanalino di coda al 107° gradino. Consegnati questa mattina al Teatro Miela di Trieste i premi Lucchetta. Sono passati quasi 30 anni dalla morte di Marco Lucchetta, Sasha Ota e Dario D'Angelo a Mostar il 28 gennaio del 94. Neanche due mesi dopo moriva a Mogadiscio Miran Krovatin con Ilaria Alpi. Alla loro memoria è dedicato da 20 anni il premio Lucchetta. A loro, ma anche a tutti gli altri giornalisti che hanno continuato a morire mentre facevano il loro lavoro. 46 nel 2023, dall'Ucraina alla striscia di Gaza. L'inviato che va sul posto e vede quello che succede con i suoi occhi oggi ha un ruolo più importante di prima, ha detto Daniela Schifani Corfini Lucchetta, presidente della fondazione che organizza il premio, perché con i social media è diventato più difficile capire cosa succede sui fronti di guerra con obiettività. Al centro dei lavori, come ogni anno, i diritti violati dei bambini. Per la categoria TV News è salito sul palco il vincitore Vincenzo Frenda con un servizio dall'ospedale sottoterra di Zhytomyr in Ucraina, in cui i bambini nascono senza vedere la luce. Per i reportage le giornaliste di Presa Diretta Sabrina Carreras, Lisa Iotti, Irene Sicurella e Antonella Bottini hanno raccontato le gravi conseguenze dei social media sulla mente dei ragazzi. Marco Gualazzini ha vinto la sezione fotografia con uno scatto dall'Afghanistan, mentre Elena Basso è stata premiata nella sezione carta stampata per un articolo realizzato con un team di giornalisti europei sui desaparecidos dell'Argentina. Nel giornalismo internazionale, Céline Martelet ha vinto il premio per un reportage sul nord-est della Siria in guerra. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Il basket, serie A2 stasera in campo l'APU Udine, che cerca Forlì la consacrazione dopo il netto successo di mercoledì contro la capolista Fortitudo nel recupero. La squadra di Vertemati al completo, se vince è sola al secondo posto, ma i romagnoli vengono da un ottimo momento e sono ora appaiati in classifica proprio ai friulani. Palla 2 alle 18 in Romagna, anche la pallacanestro Trieste a caccia del quarto successo di fila sul campo di Rimini. Ieri invece sconfitta in casa per la Gesteco Cividale, sconfitta 65-69 dalla Fortitudo Bologna dell'ex nazionale Aradori, autore di 30 punti. Diversi nel finale i fischi degli arbitri contestati dalla società ducale, coach Pilastrini però al di là dei falli fischiati sa che la sconfitta non è dovuta solo a quello. No, l'abbiamo persa perché la Fortitudo è fortissima, è chiaro che dobbiamo aggrapparci a tutto per vincere le partite, probabilmente se invece che due tiri liberi per loro, con la stoppata di Viani e la palla nostra, era diverso, ma è inutile attaccarsi a queste cose, non serve, credo che il denunciare questa cosa alla terza partita consecutiva in un finale, parlo delle partite in casa, con un finale così strano sia giusto, poi dopo ci sarà chi di dovere che ci pensa. Il giornale radio finisce qui, grazie per averci seguito e ancora una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.